Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ma questa tentiamo di risolverla in diretta, ma secondo me è impossibile. No, ce la facciamo. Ce la facciamo. È un caso straordinario, quindi Maurizio ha bisogno di spazio. Intanto benvenuto e andiamo subito al dunque. Che cosa le è capitato, Maurizio? Mi è capitato più volte di preparare una torta che solitamente cuocio in una teglia di acciaio inox, e siccome io vivo in un ambiente piuttosto caldo e umido, la devo conservare in frigorifero, quindi la copro con una pellicola di alluminio e la metto in frigo. E ho notato già diverse volte che dopo un giorno o due giorni, estraendo questa teglia, trovavo dei forellini nel foglio d'alluminio che, passando i giorni, si ingrandivano e aumentavano di numero. Allora, intanto era una torta dolce o una torta salata? Ma adesso che ci penso, era sia dolce che salata. Ah, ecco. Però lei ha fatto anche un esperimento nel frattempo e ha provato anche a non metterlo solo sulla torta, ma anche su altri recipienti, anche vuoti. E lì il fenomeno non sussiste. Ho provato ieri o ieri l'altro a mettere un'altra teglia uguale, senza cibo e con una pellicola sopra, e proprio oggi ho notato la comparsa di tre piccoli forellini, ma proprio punte di spillo. Ma lei non è che vede dei fulmini nel frigo, magari? No. Devo dire un altro dato importante, che sopra, ecco, il frigorifero ho il forno a microonde, per cui ho anche ipotizzato delle correnti vaganti che creino delle correnti indotte nell'acqua. Un'ipotesi micidiale. E la carta di alluminio potrebbe fare una sorta di, non so, resistenza, conduttore, di cortocircuito, per cui si straccia. Esatto, perché sembrano dei fori da elettroerosione, sembrano proprio. Vabbè. Allora, fermiamoci sui fori da elettroerosione e quindi chiamiamo in causa il nostro esperto che abbiamo cercato e che si è detto disponibile, il dottor Luciano Piergiovanni del Dipartimento di Scienze, Tecnologie Alimentari e Microbiologiche dell'Università di Milano. E ora lasciamo a lei il microfono per la spiegazione. Va bene, grazie. Dunque, diciamo qualcosa prima dell'alluminio, sì, che non è affatto un metallo molto nobile, e quindi non sono tutto sommato improbabili i fenomeni di corrosione. E il caso in questione riguarda un foglio sottile di alluminio, intorno ai 10 micrometri, quindi 10 millesimi di millimetro. In generale si tratta di leghe di alluminio molto puro, quindi con tenori di metallo leggero molto molto alti, superiore al 99,5, però questo non si può dire che sia vero dappertutto. Mi pare che il vostro ascoltatore parli dalla Cina. Sì, ci chiama dalla Cina, sì. Sì, ecco, sì. Francamente non so la qualità di queste produzioni in quel lontano paese, non si può nemmeno escludere che la lega utilizzata non sia purissima come quella che si utilizza da noi. Però la cosa forse più importante e più pertinente a questo caso è che questi fogli sottili, quanto più sono sottili e quanto meno bene sono realizzati industrialmente, hanno sempre un certo numero di microfori. Questa è la parte interessante. Questa è una parte interessante, sì, che tra l'altro normalmente sfuggono, diciamo, a un'osservazione visuale, però con un po' di attenzione, magari traguardando il foglio dietro una luce forte, a volte si vede. Possono vedere. Sono micro, quindi hanno diametri molto piccoli, però sono anche molto numerosi. Derivano proprio dalla tecnica di produzione di questo foglio sottile, da questi sforzi meccanici consistenti che si fanno per ridurre un semilavorato di alluminio fino a questi spessori tanto piccoli. Ecco, però poi c'è un altro passaggio. Che cosa deteriora questi fori e li fa, diciamo, in qualche modo stracciare, allargare? Ecco, questo è il discorso che un po' si riallaccia alla premessa sull'alluminio, che è un metallo poco nobile, molto molto utile, ma poco nobile dal punto di vista elettrochimico, quindi tende a corrodere. Allora, perché non si corrode normalmente? Perché spontaneamente si ricopre di un sottile strato di ossidi di alluminio che si formano per effetto dell'aria, diciamo, e che proteggono il metallo dall'alterazione. In questi microfori questa protezione garantita dallo strato di passivazione, si dice, di questi ossidi di alluminio potrebbe non essere ugualmente efficace. E quindi questi punti, questi microfori, potrebbero essere un luogo di elezione per dei fenomeni di corrosione. Ecco, sì, esatto. Ma corrosione è dovuta a cosa? Allora, una forma comune è una corrosione acida. Ci sono dei componenti degli alimenti che possono liberare anche vapori acidi e questi sono persino in grado di sciogliere l'ossido di alluminio di protezione e corrodere, sciogliere il metallo allargando per esempio queste porosità. Una corrosione potrebbe essere invece di tipo galvanico, legato alla presenza di un altro metallo in contatto con l'alluminio che determina una pila e questa pila, questo movimento di elettroni interno al materiale può portare a una corrosione localizzata. Ancora più localizzate sono le forme di corrosione legate alla presenza del cloro. Cloro che potrebbe derivare, nel caso raccontato, anche dal sale. Della torta salata, eccetera, eccetera. Ma ci può essere qualche pericolo per la salute, le chiedo? Ah no, guardi, lo escluderei assolutamente. L'alluminio entra in molte preparazioni farmaceutiche, è un elemento distribuito in tutto il nostro mondo così diffusamente che nessun problema. Conosciamo bene e possiamo escludere qualsiasi rischio per il consumatore. Speriamo che Maurizio sia soddisfatto. Maurizio. Sì, grazie mille, è stata un'esauriente spiegazione. Questa di Maurizio era difficile, quasi impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi rispondiamo a tutto. Scriveteci a elementare@radio24.it. Ci scrive per esempio Nick Deviato, tecnico di regia di Radio 24. Qui da noi ci sono dei nuovi mixer. Succede una cosa curiosa con un cursore. Alzandolo si sente sempre, noi tiriamo giù subito, si sente la voce, non ci sono dubbi secondo noi, di Papa Ratzinger che grida gol come quei commentatori quando segna l'Italia. Da cosa può dipendere? Elementare, Watson.